Spazio culturale anche oggi per parlare del Premio Internazionale di Poesia Religiosa San Sabino, nona edizione, un premio a cadenza biennale, ricorderete già 2 anni fa ne abbiamo parlato. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il prossimo 31 di marzo, ancora dunque diverso tempo davanti. Ospitiamo il segretario generale del comitato organizzatore, Enzo Ramazzina. Buongiorno Enzo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Facciamo un ripasso perché sono passati 2 anni, quindi il titolo già dice molto. Premio Internazionale di Poesia Religiosa San Sabino. Partiamo da San Sabino, che è l'ultima cosa, per collocarci anche nella catena geografica. Certamente. Allora, 9 anni fa, quando è iniziato la prima edizione, il fondatore, uno dei fondatori, che era Gian Pietro Giuliucci, poeta, ma era anche un critico letterario ed era un amico, ha pensato appunto a questo premio di poesia religiosa. Non che non ce ne fossero in Italia, perché ce n'è qualcuno, però probabilmente pensando al premio di poesia religiosa Campo San Piero, che è anch'esso un premio biennale, ma che per fortuna, diciamo tra virgolette per fortuna, non si accavalla con il nostro. Infatti il premio Campo San Piero è già stato espletato, adesso tocca il nostro per marzo e maggio. Bene, questo premio quindi si chiama San Sabino perché la cerimonia di premiazione viene fatta in maggio nella chiesetta millenaria di San Sabino in Torreglia. Siamo dunque sui Colli Euganei. Siamo sui Colli Euganei, sì. E dunque è un premio di poesia religiosa. Allora cerchiamo di circoscrivere il contesto. Sì. Allora io mi limito a leggere quelle 2 righe che sono state inserite anche nel regolamento. Cosa significa? È una iniziativa che promuove la poesia religiosa e spirituale come una forma di ricerca del divino ed espressione profonda dell'umano. Questo è il... Io che ho fatto parte in altre circostanze a premi di poesia, volevo precisare questo. I candidati, le persone che ritengono di avere talento e di scrivere questo genere, dovrebbero stare attenti a non mandare, ad esempio, storia sacra verseggiata oppure preghiere. In genere arrivano anche delle bellissime preghiere dal punto di vista letterario, che però non hanno nulla a che vedere con la poesia. È un pericolo, perché altrimenti la giuria poi scarta, insomma. Ed è anche un peccato. Ed è anche un peccato, perché ci sono dei testi molto belli. Quindi, una cosa importante a proposito del Campo San Piero. Il premio di poesia San Sabino si è gemellato quest'anno con l'altro più prestigioso di Campo San Piero, che è nato, mi credo, oltre 35 anni fa, quando c'era come presidente padre Davide Maria Turoldo. Che ho avuto... ricordiamo i 25 anni della morte. Esatto, e ho avuto anche il piacere di conoscerlo personalmente. Eravamo proprio nelle prime edizioni di questo Campo San Piero. C'è quindi un gemellaggio tra i 2 premi. E inoltre c'è quest'anno, per il premio San Sabino, una novità. La novità è questa: la giuria del San Sabino è formata di persone competenti, ma non lo dico per incensare, per adulare, perché in genere in questi premi sappiamo come sono questi premi di poesia. Ci sono delle giurie un po' raffazzonate, magari uno manda le proprie poesie e chi era il personaggio? Era l'assessore alla cultura, bene, benissimo. Che cosa faceva di professione? Il fruttivendolo. Con tutto il rispetto per i fruttivendoli, però uno dice, insomma, la mia poesia viene giudicata da... Ecco, qui non abbiamo fruttivendoli, qui abbiamo giornalisti, poeti, critici letterari, ed è una giuria veramente di taratura, insomma, importante. Bene, volevo arrivare a questo. Una membra della giuria, che è Francesca Diano, traduttrice, conosce James Harpur, che è forse la voce più importante nel mondo in merito a questo genere di poesia, la poesia religiosa. Lei ha avuto a che fare con questo poeta perché traduce le sue poesie a Confidenza e l'ha invitato a venire a Torreglia in occasione del San Sabino. Questo Harpur, che è una persona umile, una persona buona, così, ha accettato gratuitamente. Io dopo non so se la parrocchia rifonderà, non so, il viaggio, perché lui viene dall'Irlanda, però ha accettato di venire a presentare il San Sabino, a presentare le sue pubblicazioni e a parlare della poesia religiosa. Quindi sarà invitato al Teatro La Perla qualche settimana prima della cerimonia di premiazione per parlare di questa cosa. Quindi l'abbiamo come testimone e come padrino. Ecco, come padrino. È un nome importante. Lei ha citato Francesca Diano, appunto membro della giuria. Citiamo anche gli altri. Citiamo anche gli altri, certo. Sì. Allora, gli altri, scusate perché non me li ricordo adesso a memoria. Ah, eccolo qua, sì. Ce l'abbiamo lì. Comunque, guardi, li avevo già anche scritti qui. Abbiamo Patrizia Invernizzi, Giuseppe Zamarin, Luca Bortoli, abbiamo citato Francesca Diano e poi Marisa Boschi. E quindi c'è il presidente della giuria, Stefano Valentini, che è il direttore della nuova Tribuna Letteraria, la rivista di carattere letterario molto importante, insomma, è un giornalista. Ci sono, come in altri premi, sezioni diverse? Sì. Allora, sono state previste due sezioni. Una sezione per gli adulti e una sezione per i giovani. Giovani intesi non come ragazzini delle scuole, ecco, per cui il giovane che ha compiuto 18 anni, esatto, sezione giovani 18-30 anni, ecco, compiuti entro il 31 marzo 2017. Per cui il giovane che concorre per la propria sezione, volendo, potrebbe concorrere anche per la sezione adulti. Ecco, qual è il problema? Tra virgolette, il problema è che siccome si deve pagare una piccola tassa simbolica, come in tutti questi concorsi, certo. No, chiaramente chi partecipa alle due sezioni deve pagare due volte la tassa, ma è una cosa da niente, insomma, non è una grande cifra. Quindi una sezione per adulti e una sezione giovani, giovani. Per età. Sì, la sezione, dunque, i premi sono un primo, un secondo e un terzo premio per ciascuna sezione. Sono previsti dei premi in denaro, una piccola somma, una somma simbolica se vogliamo, ma la gratificazione del vincitore non sta tanto nel ricevimento di questo denaro, quanto nella pubblicazione delle sue poesie. Ecco che le poesie premiate, ma anche le poesie selezionate, ma anche altre poesie che la giuria ritiene abbiano un contenuto importante, vengono inserite in un'antologia che prenderà il nome di Parola e Mistero. Questo è il titolo, anzi è il titolo anche del premio. Bene, quindi le persone premiate, il primo, il secondo, il terzo premio, le persone selezionate, riceveranno in dono anche un certo numero di copie di questa antologia. Non solo, ma potranno entrare in internet e leggere le loro poesie in internet. Ecco, a proposito, allora, parrocchiatorreglia.it, c'è la sezione Premio Poesia San Sabino, dove trovate anche i dettagli. Il tempo per l'iscrizione è il 31 di marzo, quindi c'è tempo, mentre la cerimonia di premiazione alla Pieve di San Sabino a Torreglia sarà il prossimo 27 di maggio. C'è tutta una serie di clausole, insomma, su cui non ci dilunghiamo. Un cenno finale lo facciamo sulla possibilità di sostenere il premio. Gli sponsor sono sempre benvenuti, no? Sì. Io vedo che nel volantino già c'è qualcosa, però su questo cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire che se c'è qualcuno interessato può prenotarsi, può parlare con la parrocchia, telefona, insomma, e quindi può dare il suo contributo. Poi abbiamo degli sponsor anche di un certo livello, di un certo calibro, insomma. E poi c'è da dire una cosa: il libro, questo libro, non è come per gli altri concorsi, si dà al premiato un certo numero di copie che poi lui distribuisce ai vari amici, dà in omaggio. È una cosa un po' diversa, perché questo libro si può trovare anche nelle librerie. l'editore collocherà un certo numero di copie anche nelle librerie. Quindi si potrà avere, richiedendolo alla parrocchia, al centro culturale La Perla, che collabora con il premio, si potrà chiedere in libreria e quindi insomma c'è un'ampia distribuzione. Allora, parrocchiatorreglia.it, sezione premio San Sabino, ne parleremo ancora nelle prossime settimane con degli spazi di approfondimento insieme a Don Giulio Osto. Ringrazio il segretario generale del comitato organizzatore Enzo Ramazzina per questa ampia presentazione, grazie per l'intervento, buona giornata. Grazie a voi, grazie.